prepare this world, make this time different than all the rest. Известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. Il sistema internazionale dominato dagli Stati Uniti e la loro potenza sono per molti aspetti la continuazione di una tradizione di potenza dei paesi di lingua inglese risalente al tardo XVII secolo. Sin dalla gloriosa rivoluzione del 1688, che diede il potere ai protestanti e al Parlamento, gli angloamericani si sono sempre trovati dalla parte dei vincitori in tutti i grandi conflitti internazionali. La guerra della Lega di Augusta, la guerra di successione spagnola, la guerra dei sette anni, la rivoluzione americana, in cui la Gran Bretagna perse ma l'America vinse, la rivoluzione francese e le guerre napoleoniche, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la guerra fredda. Queste sono le guerre da cui ha avuto origine il mondo moderno e la Gran Bretagna, gli Stati Uniti o entrambi, insieme, le hanno vinte tutte. Dunque, benvenuti a un'altra delle puntate monografiche che di tanto in tanto Jefferson dedica a personaggi, soprattutto ai prodotti di questi personaggi che possono servire ad allargare la comprensione, insomma, di uno scenario complessivo con il quale poi ci confrontiamo giorno per giorno, soprattutto sulla base delle notizie, delle novità, dei cambiamenti e dei conflitti. Il brano che avete sentito in apertura è tratto da un libro che si intitola Dio e Dollaro, la Gran Bretagna, l'America e le origini del mondo moderno, un titolo certamente tanto impegnativo quanto promettente, pubblicato dalla collezione storica Garzanti e firmato soprattutto da Walter Russell Mead, che è il personaggio che incontreremo e che vi proponiamo, di cui vi proponiamo la conoscenza oggi attraverso una intervista realizzata da Emiliano Enrico. Dunque, però servono alcuni dati informativi, introduttivi per inquadrare, approfondire il lavoro che si può fare oggi nel corso di questa trasmissione. Prima di tutto capire chi è Mead. Mead è un importante analista, un assai rispettato analista di scenari politici internazionali americano. Scenari politici internazionali naturalmente visti, inquadrati dal punto di vista dall'osservatorio americano. Non a caso è membro del Council of, on Foreign Relations, che è un think tank, che è il think tank più importante, più ascoltato, che si occupa di queste questioni a Washington. Studia gli sviluppi, le dinamiche, le traiettorie, gli andamenti della politica internazionale americana e soprattutto tende a rispondere a una domanda che è esattamente il nucleo, il centro della trasmissione che vi proponiamo oggi, ovvero qual è stato, ma soprattutto quale è destinato a essere il ruolo americano nel mondo, il ruolo internazionale nel mondo. Questa è la questione attorno al quale lavora il Council on Foreign Relations, attorno al quale ragiona da molti anni e attraverso molti titoli significativi Walter Russell Mead, e su cui si basa per l'appunto il libro, un testo corposo, impegnativo, ma addirittura assai interessante, che ora vede la luce anche in italiano nelle nostre librerie, come capita peraltro con la produzione più generale di Mead. Io, prima di cominciare ad ascoltare Mead e poi alternare magari con qualche lettura e con qualche considerazione sul senso generale del libro che Mead ha scritto, vi voglio ancora spiegare meglio che cos'è questo Council on Foreign Relations, che è un posto molto interessante dove ho avuto occasione di recarmi spesso e di incontrare parecchi personaggi significativi, uno per tutti Peter Beinart, ex direttore di New Republic, attualmente al servizio del Council, che si trova nel cuore della struttura intellettuale di Washington, Washington, nelle strade, nelle avenue, che raccolgono proprio queste intelligenze e questo lavoro, e che ha sede anche a New York, sulla 58esima strada. Il Council è un'associazione privata americana, apartitica, composta soprattutto da uomini d'affari e leader politici, il cui scopo è studiare i problemi globali in vista del ruolo chiave, no, nella definizione della politica estera degli Stati Uniti, ovvero ciò che dice il Council poi finisce sulle scrivanie che contano veramente in America, perché questo è il senso e il significato del lavoro dei think tank, no, dei laboratori intellettuali, delle fondazioni, chiamatele come vi pare, che agiscono in America, in particolare sull'asse Washington-New York, e preparare tutti i materiali teorici di analisi, di studio, di approfondimento e di proposta su cui poi, attraverso i quali poi le persone delegate a comandare, quindi con un mandato essenzialmente politico, possono ragionare e elaborare soluzioni, scelte, opportunità. Sarebbe bello che il lavoro dei think tank e le opportunità di lavoro all'interno dei think tank, che immagino molti di voi sognano, no, come un punto di arrivo magari di un periodo di studi, avesse lo stesso sviluppo anche dalle parti nostre. Purtroppo così non è, purtroppo spesso l'improvvisazione o magari delle teorie dallo spessore non troppo credibile hanno la maggioranza. Pensate che la conferenza di pace del 1919 segnò il punto di partenza, alla fine della prima guerra mondiale, segnò il punto di partenza per la creazione del Council, quindi una nascita nobile all'indomani di un conflitto mondiale. Si decide di stabilizzare il lavoro di analisi prodotto dalle principali intelligenze, dalle principali potenzialità intellettuali di una nazione come quella americana, per capire appunto la questione di cui vi ho già accennato, che è poi una questione attorno alla quale, utilizzando proprio gli strumenti offerti da un centro di ricerca come il Council e da studiosi come Walter Russell Mead, sta agendo, lavorando, elaborando e parlando anche l'amministrazione di Barack Obama, che non a caso, come priorità, almeno in politica internazionale, come sua priorità sta proponendo la modifica, il cambiamento, lo slittamento del ruolo americano nel mondo. Ma su tutto questo poi torneremo un po' alla volta, perché adesso cominciamo a fare la conoscenza con il nostro ospite, con Walter Mead e il suo libro, che vi ricordo ancora si intitola Dio e Dollaro. La prima domanda che gli poniamo riguarda il ruolo fondamentale, come abbiamo già sentito nella lettura che ha introdotto la puntata, il ruolo fondamentale nel successo del modello anglo-americano giocato ancora oggi dalla religione, no? Il titolo stesso del libro, no? Parla proprio di Dio e dollaro, un binomio potentissimo, al tempo stesso pericolosissimo. Abbiamo chiesto a Walter Mead se lui, che sembra preferire di gran lunga il protestantesimo dominante nel mondo anglosassone, come si rapporta insomma invece al cattolicesimo, che è così tanto diffuso soprattutto nel resto d'Europa, nella nostra Europa. Ascoltiamo Walter Mead. Well, I think it's important to make a distinction between Catholicism historically and Catholicism today. Credo che sia importante fare una distinzione tra il cattolicesimo in senso storico e quello che è il cattolicesimo oggi. Because I think since the Second Vatican Council, the Church has really made the individual conscience the center of its moral teaching. Dal secondo Consiglio Vaticano, la Chiesa ha reso la coscienza individuale il principio guida. This is a change, and I think a very interesting one, and so I don't say anything about future. I can't predict the future. Questo è sicuramente un cambiamento rispetto al passato, molto interessante. Per il futuro, bene, quello non posso prevederlo. But if we speak of the past and of the last 300 years of European history, se però consideriamo il passato, in particolare gli ultimi 300 anni di storia, si può dire che la cultura protestante in qualche modo ha reso più semplice, ha agevolato quella che è la caratteristica individuale del capitalista che si assume il rischio. And one of the chief consequences of this. E per esempio una delle conseguenze principali è che il conflitto tra modernità e tradizione negli Stati Uniti non è emerso come lo ha fatto in altri paesi. So in France you had the Jacobins who believed we have to destroy our religion if we can be a republic, we have to fight the church. In Francia ad esempio ci sono stati i giacobini che pensavano di dover distruggere la Chiesa e la religione per difendere lo Stato e dall'altra parte i cristiani che intendevano combattere contro lo Stato per difendere la propria religione e rimanere fedeli a Dio. Between modernity and religion. E questo tragico conflitto tra modernità e religione ha portato ad un adattamento piuttosto lento a quello che era lo sviluppo del capitalismo, quindi questi paesi europei si sono adattati più lentamente alla realtà del capitalismo. Ancora qualche particolare biografico su Walter Mead, questo sofisticato intellettuale di cui state ascoltando i pareri nell'intervista che gli abbiamo fatto, ma anche attraverso il libro che è ora in circolazione in Italia, che si chiama Dio e Dollaro. È nato nel 52 a Columbia, South Carolina, lo stato che proprio in questi giorni, no, è stato scosso dallo scandalo del governatore Sanford, reo confesso di adulterio, probabilmente sulla strada dell'impeachment o del ritiro dalla sua carica. È figlio di un pastore episcopale, educato a Washington, poi Yale, naturalmente i migliori studi, poi il debutto nel giornalismo, ma soprattutto nella ricerca politica attraverso articoli scritti per le migliori testate di settore americane come Foreign Affairs, il New Yorker, il Wall Street Journal o The American Interest, che è un periodico per addetti di cui è anche direttore editoriale, poi una densa attività editoriale, parecchi titoli come nel 2001 Special Providence, un libro molto premiato anche in Italia con il premio premio Acqui, un libro in cui Mead sostiene che ci sono quattro strade principali, di quattro impronte principali, diciamo così, di politiche americane nel mondo. Lui li definisce e poi li racconta, li analizza, anzi da loro dei nomi riferiti a dei grandi personaggi della storia americana. Li chiama gli Hamiltoniani, i Wilsoniani, i Jeffersoniani, scusate se anche noi in un certo senso ci mettiamo, no, il naso dentro, e gli Jacksoniani, riferendosi a Andrew Jackson, un presidente americano, tra l'altro al centro di una grande riscoperta anche editoriale proprio in questi anni. Poi nel 2005 ha scritto un libro in cui in un certo senso sostanziava il proprio sostegno alla guerra in Iraq. Il libro si intitola Power, Terror, Peace and War, potere, terrore, pace e guerra, la grande strategia americana in un mondo a rischio. E nel 2007, quindi prima della elezione di Barack Obama, è arrivato questo Dio e dollaro, la Gran Bretagna, l'America e le origini del mondo moderno. Torniamo a parlare ora con Walter Mead, sottoponendogli una domanda attorno ai luoghi comuni che Mead intende smontare, ad esempio quello che tutti i grandi imperi prima o poi tramontino e che quindi toccherà anche agli Stati Uniti. Mead non la pensa così, vediamo perché. Well, I think that this is certainly true. Credo che questa sia un'affermazione che possa essere valida nel lungo periodo, per così dire. Dire che un impero è destinato al declino non è la stessa cosa che dire che cadrà domani. La città di Roma è stata fondata nel 750 avanti Cristo e non è stata saccheggiata prima del 410 anno domini, quindi è durata 1000 anni. Bisanzio anche è riuscita a sopravvivere per 1000 anni. Ora, proprio come è avvenuto per l'impero romano, che è durato per migliaia di anni, anche l'impero americano non è detto che cada domani. Non c'è niente di inevitabile, però non si può semplicemente passare dall'affermazione che poiché tutti gli imperi sono destinati a finire, l'impero americano potrà cadere domani, o forse sì. Proseguiamo subito con la nostra conversazione con Walter Mead, analizzando un secondo luogo comune nei confronti dei quali l'autore ha qualcosa da dire. Alla base ci sarebbe la forte interdipendenza tra Europa e Stati Uniti, quella ad esempio espressa, professata da Huntington, teorie su cui Mead però non si schiera, che non condivide. Allora, visto che l'Occidente, di cui siamo tutti parti, sarebbe in crisi, insomma anche gli Stati Uniti sarebbero in un certo senso inseriti, no, in questa specie di tramonto collettivo di quello che era ed è stato a lungo considerato il centro del mondo. Ma questo ragionamento non soddisfa Mead. Cerchiamo di capire perché. There's a great This argument is very general, and then people try to draw a very specific conclusion from it. Questo problema che da una tesi, da un'argomentazione generale, si trae una conclusione specifica. Si può dire, ad esempio, che Roma e la Grecia fossero parte di una stessa civiltà, eppure l'impero di Alessandro è durato moltissimo. Anche se il destino dell'Unione Europea e degli Stati Uniti è sicuramente congiunto, non è che da qui si può immediatamente trarre la conclusione che ci sarà immediatamente un declino. Non sarebbe logico arrivare a questa conclusione in base alla tesi sostenuta da Huntington, che siccome l'Occidente è in declino, anche gli Stati Uniti debbano arrivare alla fine di questo loro percorso. Got his work, she comes easy. They each come around when the other is gone. Me, I think I got stuck somewhere in between. I wouldn't confide in the prodigal son. The die has been cast, the battle is won. The bullets were flying. Prosperità e potenza all'ombra del debito hanno resistito ormai più di 300 anni, ma le grida di allarme continuano a ottenere attenzione e a suscitare preoccupazioni come se fossero nuove. Ogni volta che il debito nel mondo di lingua inglese oltrepassava una nuova soglia, ci sono sempre state voci pronte a rilevare come il debito di quel momento fosse senza precedenti e che pertanto il pericolo di un crollo fosse maggiore che in passato. Sarà pur vero, ma forse è altrettanto vero che le ricorrenti ondate di allarmismo fanno parte del processo culturale che per 300 anni ha permesso ai popoli di lingua inglese di amministrare correttamente le proprie finanze. In questo arco di tempo, figure molto sagge, preparate e rispettate hanno profetizzato un'imminente rovina finanziaria, hanno suffragato le proprie tesi con dati fattuali acutamente analizzati, hanno portato l'opinione pubblica e quella accademica da un'ondata di panico all'altro e si sono sempre profondamente e immancabilmente sbagliate. E questo è un secondo estratto dal libro e dal personaggio che abbiamo messo al centro della puntata di oggi di Jefferson, una puntata monografica dedicata a Walter Russell Mead, analista, studioso di politica internazionale, soprattutto attento e dedicato a studiare un tema che ci sta particolarmente a cuore, anche come motivazione, no, del nostro programma, ovvero il ruolo americano nel mondo. Attorno a questo ruolo Mead ragiona da molti anni anche professionalmente come membro del Council on Foreign Relations, il consiglio sulle relazioni internazionali, di cui fa parte come nel board direttivo, nel filone, nel board intitolato a Henry Kissinger. Ora è pubblicato in Italia questo libro che si chiama Dio e Dollaro da Garzanti, ve ne stiamo leggendo degli estratti, vi stiamo presentando alcune domande e risposte, botte e risposte con Mead registrate da Emiliano Enrico. Il libro insomma parte proprio dal presupposto di una centralità nello sviluppo della modernità del pianeta, di una centralità anglo-americana che fa risalire Mead addirittura ai tempi di Cromwell, insomma, con inglesi e americani convinti che i loro nemici fossero anche i nemici di Dio, i nemici della libertà, insomma popoli senza morale, quindi in un certo senso popoli subalterni destinati a essere sconfitti ma capaci di atteggiamenti eticamente imprevedibili, inattesi, quindi pericolosi, no? Dalla Spagna cattolica fino al Re Sole, ma ci mette dentro anche nazisti, comunisti e anche, per rendere tutto contemporaneo, Al-Qaeda, per fare una sigla, inglesi e americani si battono contro questo male generalizzato, no? In un certo senso rappresentando le insegne del progresso, insegne del bene, perdendo qualche battaglia ma vincendo sempre le guerre. Torniamo ora ad ascoltare i pareri di Mead relativi al progressivo impallidire di questo potere anglo-americano, su cui invece l'autore sembra ancora pronto a scommettere, comunque pronto a credere se non altro, e chiediamo che cosa nel dualismo Stati Uniti-Unione Europea, come si colloca, su quale dei due poli sia pronto a fare la sua puntata. Interesting question. As far as I can see, both the EU and the US right now are succeeding in their goals. Their goals are a little bit different. Nell'Unione Europea si sta cercando di arrivare ad una integrazione sempre maggiore delle economie dei paesi europei, e mi sembra che questo progetto possa avere un futuro prospero. Negli Stati Uniti si sta cercando di mantenere un sistema economico che è giovevole agli Stati Uniti, ma anche ad altri paesi, e anche questo progetto mi sembra che stia andando continuamente in porto. Quindi, nonostante la presenza di una grave crisi economica, entrambi i progetti, sia quello dell'Unione Europea che quello degli Stati Uniti, secondo me, hanno un grande futuro. In sostanza, Dio e dollaro illustra il rapporto profondo tra la concezione del mondo, che vede proprio queste insegne del bene portate dalle civiltà e dalle potenze anglo-americane, e l'esplosione del capitalismo, no? Presupposti dai quali si sarebbe sviluppato il modello, il sistema liberale e democratico che poi si è diffuso in tutto il mondo, o che in certe occasioni, come ad esempio sotto la gestione di George W. Bush alla Casa Bianca, si è deciso di diffondere, volenti o nolenti, i paesi oggetti appunto di diffusione. Torniamo a parlare con Mead. Ci sono i declinisti, definiti così da Mead, quelli che pensano che sia ora che il sole stia tramontando sull'impero anglo-americano, che Mead non condivide. Gli Stati Uniti di oggi ricorderebbero l'impero inglese di un secolo fa, secondo questi disfattisti, chiamiamoli così, come l'Inghilterra fu all'epoca superata da altre potenze. Nel XXI secolo gli Stati Uniti potrebbero fare la stessa fine. Questa tesi non convince il nostro autore. Sentiamo perché. Well, first of all, you can only see the apex in retrospect. So it's not clear that the apex has been passed. Prima di tutto, quando si parla di apice, in realtà lo si può fare soltanto considerandolo retrospettivamente, quindi non sappiamo se si sia veramente arrivati all'apice, perché non lo stiamo guardando retrospettivamente, considerando retrospettivamente. Comunque, se si considera quella che è stata la base della potenza inglese al momento del massimo culmine nel 1860-1870, vediamo che il potere economico della Gran Bretagna rappresentava grosso modo il 7% del PIL mondiale. Gli Stati Uniti, per quanto riguarda gli Stati Uniti, questi rappresentano il 20% di quello che potremmo definire il PIL mondiale. Ora, se si considerano le proiezioni per gli Stati Uniti e per l'Unione Europea effettuate da tutta una serie di organismi internazionali che si occupano di queste analisi anche fino al 2020, vediamo che gli Stati Uniti hanno un peso economico che è pari a, al doppio, addirittura al triplo di quello che era il peso economico della, della Gran Bretagna all'epoca della sua massima espansione. Quindi ancora una volta non è un ragionamento completamente logico e non si può quindi dire che gli Stati Uniti stanno necessariamente seguendo le orme della Gran Bretagna. In sostanza, Walter Mead immagina un futuro in cui gli Stati Uniti rimarranno una potenza globale, però non più unipolare, ma in un contesto multipolare. Tutto questo detto, scritto prima che Barack Obama arrivasse alla Casa Bianca, sembra, come dire, profeticamente ben messo, nel senso che poi quello che sta dicendo Barack Obama proprio adesso, ad esempio quello che ha espresso chiaramente nei confronti del mondo arabo con il suo discorso del Cairo, è proprio questo. Noi siamo qua, siamo pronti a fare la nostra parte, però non vogliamo essere più gli unici a fare la parte deve essere appunto nostra, ci vuole una pluralità di intenti, di sforzi e di impegni che chiamino all'appello anche altre potenze mondiali. Vediamo per l'appunto cosa immagina Mead in questo senso, no? un Obama che può rappresentare il simbolo, può essere simbolo, icona di questo nuovo ordine multipolare. Ascoltiamo. The United States was able to turn in a different direction. Gli Stati Uniti sono stati in grado di voltare pagina, hanno dimostrato la capacità di cambiare, la capacità di reagire ai nuovi sviluppi, e questo è sicuramente un elemento di forza del sistema americano. Ora, individuare e dire che l'unipolarismo in qualche modo coincida con quello che può essere il successo degli Stati Uniti e un mondo multipolare invece debba necessariamente coincidere con una fine dell'impero americano è un errore. Nella storia ci sono stati sempre atti e momenti di multipolarismo e altri di unipolarismo, per esempio nel 1763 la Gran Bretagna ha vissuto un momento di unipolarismo con la sconfitta della Francia in quella guerra. Per esempio gli Stati Uniti non hanno mai avuto un potere così forte come nel 1945, erano l'unica potenza ad avere la bomba atomica, una economia funzionante. Però devo dire che in fondo il maggiore momento di prosperità degli Stati Uniti ha coinciso con quello che è stato un'epoca felice per l'Unione Europea, e cioè gli anni Ottanta, cioè quando anche l'Unione Europea era in grado di prosperare e di intervenire. L'unipolarità in qualche modo può essere un segno della crisi di questo modello, nel senso che è proprio il multipolarismo quello che funziona. Obama dimostra di voler rinnovare quelli che sono i rapporti di collaborazione e le relazioni con paesi strategici nel mondo. Proprio questa che potrà essere la forza del sistema politico americano. movimento puritano fu un fattore essenziale per lo sviluppo delle idee liberali e democratiche nella società anglo-americana. I movimenti religiosi che derivano dal puritanesimo o da movimenti riformatori simili continuano a giocare un ruolo molto importante nella vita democratica americana. Ma i puritani delle origini non erano certo liberali né tolleranti, ed è solo grazie al fatto che non sono stati in grado di dar vita a una stabile teocrazia in Inghilterra che la società britannica ha potuto fare un passo avanti. Può sembrare arrogante dirlo, ma il movimento wahabita e le correnti di riforma islamica che a esso fanno riferimento sembrano destinati alla stessa fine. È anche probabile che l'ardore religioso dei wahabiti andrà progressivamente spegnendosi con le nuove generazioni, proprio come è successo in passato per tutti gli altri movimenti di riforma islamici o cristiani. In sostanza, bisogna capire le ragioni degli altri, ridefinire il proprio ruolo all'interno dei conflitti planetari, proprio a cominciare dal Medio Oriente appena citato. E questa è la chiave, secondo Walter Mead, per capire la modernità, intrecciare sapientemente ma in modo equilibrato, bilanciato, filosofia, religione e naturalmente politica. Torniamo a fare l'ultimo paio di domande al nostro autore, partendo da una delle testate su cui si esprime, pubblica i propri articoli, il Foreign Policy, la celebre rivista diretta da Moses Naim, politologo globale, se ce n'è uno, noto anche in Italia, appare spesso alla nostra televisione. Ebbene, Naim ha chiesto a Mead di dare un voto ai primi 100 giorni di Obama in ambito internazionale, alla sua politica e soprattutto alle sue proposte. Bene, il voto dato da Mead è altissimo, addirittura un bel 9. Allora gli abbiamo chiesto perché, e tra l'altro riferendoci anche a una recente intervista che abbiamo fatto, che abbiamo proposto con Gilles Kepel, nel quale diceva che il fulcro della politica estera di Obama sarà l'Iran, condivide questa visione, approva le mosse che Obama sta facendo. There are only a few things that the foreign policy should accomplish. Gli ho dato un voto così alto perché nei primi 100 giorni sono poche le questioni che devono essere risolte in politica estera. Fondamentalmente si deve garantire una transizione tranquilla senza commettere troppi errori. E bisogna cominciare a proiettare quelli che sono i propositi dell'amministrazione, e credo che l'amministrazione americana fino a questo punto abbia lavorato molto bene, ma l'impegno più grosso è quello che dovrà dimostrare dopo i primi 100 giorni. Ora, l'Iran certamente è e sarà una questione complessa, una questione strategica. Certamente la Casa Bianca si preoccupa però molto anche di quello che avviene in Pakistan, perché la crisi del Pakistan e la questione delle armi nucleari preoccupano in modo particolare la Casa Bianca, e anche la società pakistana sta cominciando a preoccuparsi della crisi, quindi c'è da sperare che la questione si risolva. Ma se si considera la potenzialità, le potenzialità di un conflitto tra l'India e il Pakistan, si comprende bene che non è soltanto l'Iran a preoccupare il presidente Obama. Bene, siamo al congedo con l'ospite di oggi, un altro di questi studiosi, intellettuali, ricercatori, storici, attivamente membri dei think tank anglo-americani, che cerchiamo di ascoltare perché pensiamo sia una proposta e un'analisi troppo sottovalutata dalle parti nostre, peraltro non utilizzata neanche con un nostro modulo, come dire, nazionale, un lavoro che andrebbe fatto anche perché le energie i talenti. Ci sono un'ultima domanda, proprio un po' più di spirito italiano, per Walter Meade. Dal punto di vista americano, vogliamo sapere da lui come appare questo Silvio Berlusconi sotto accusa, non tanto per ciò che fa al governo, ma per le famose frequentazioni femminili. Ci sono stati paragoni, no, con l'affare Clinton-Lewinsky. Che cosa ne pensa? Well, I suppose judge not, lest ye be judged, is always very good advice here. And I think President Berlusconi will make an accounting of his actions to God, as will I, as will President Clinton. Let's hope God will have mercy on us all. Credo che qui si possa dire soltanto non giudicare, non sarai giudicato, e che sia Berlusconi che Clinton renderanno conto di quello che hanno fatto a Dio. Il mondo secondo Walter Meade, soprattutto il ruolo americano nel mondo. Vi abbiamo più volte ripetuto oggi, anche di solito nella nostra trasmissione, che è un argomento importante, perché è un argomento destinato a modificare gli andamenti del pianeta. Una correzione di rotta darà luogo poi a un effetto domino che ci sembra assai interessante seguire, e per farlo può essere utile leggere questo libro, di cui oggi vi abbiamo fatto ascoltare degli estratti, e nonché la voce del suo autore. Si chiama Walter Meade, il libro è Dio e Dollaro, la Gran Bretagna, l'America e le origini del mondo moderno, pubblicato da Garzanti, una proposta di Jefferson 2, l'arte a svolta, condotto come di consueto da Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico. L'appuntamento è attorno alle 4, come sempre, qui su Radio 24, dove vi aspettiamo e ci risentiremo. 是带着小酒也行，巴拉手来手去都只是游戏。